Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini incrociati fa un balzo indietro nel tempo, fino al 1935. Ci troviamo a Londra, più precisamente a Westminster, in West End Street. Qui, vicino a Cambridge Circus, si trova un piccolo teatro, l'Ambassador Theatre. Il brusio che sentite è quello del pubblico, 195 spettatori, che stasera, 21 maggio 1935, assisterà ad una delle repliche di The Mask of Virtue, un dramma in costume scritto dal drammaturgo tedesco Karl Starnheim. Lo spettacolo sta registrando uno straordinario tutto esaurito, tanto che fra qualche giorno l'impresario Sidney Carroll si vedrà costretto a spostarlo nel più grande St. James Theatre. Quando le luci si spengono e il brusio si dissolve, sul palco si materializza il motivo principale di questo grande successo. Nei panni di Henriette Duquesnoy, una prostituta che cambia vita nella Francia di Luigi XV, c'è una meravigliosa attrice poco più che ventenne, alta, bruna, gli occhi profondi, uno splendido abito nero. Si tratta della bellissima Vivian Leigh. Vivian Leigh. Dopotutto, domani è un altro giorno. L'avrete riconosciuto, è Via col vento, film leggendario, secondo alcuni il più grande mai realizzato. Nella parte indimenticabile di Rossella O'Hara c'è proprio lei, Vivian Leigh. Ma torniamo a quella serata teatrale di fine primavera. Vivian Leigh ha 22 anni e già fa molto parlare di sé. Il ruolo trasgressivo di quella pièce in costume le permette di essere notata e discussa da critici e attori. Quella sera la platea ha un pubblico molto tecnico. Sono colleghi, registi, venuti a vederla di persona per capire se quello che si dice di lei è vero, se Vivian è già una donna spavalda, sicura di sé, a dispetto della sua età ancora acerba. La giovane attrice possiede una personalità inquieta e turbolenta, incline a farsi travolgere, arricchire e a volte svuotare dalle passioni più tumultuose. Il giorno dello spettacolo, Vivian lascia a casa un marito e una figlia, cosa che non le impedisce di calcare le scene. Cerca qualcosa in più, Vivian, qualcosa che ancora non ha e che troverà puntualmente. Come si è formato un carattere così forte e allo stesso tempo pieno di contraddizioni? Vivian Leigh nasce a Darjeeling, in India, nel 1913. Il suo vero nome è Vivian Mary Hartley, figlia di un ufficiale della cavalleria britannica e di una giovane attrice di origine irlandese. La piccola Vivian eredita dalla madre la passione per la recitazione, ma mette in mostra presto un talento ben più importante di quello materno. Inizia infatti a calcare i palcoscenici all'età di 6 anni e stringe amicizia con un'altra piccola futura attrice, Maureen O'Sullivan. I primi anni di vita per la futura Rossella O'Hara trascorrono in grande serenità, come racconta il suo biografo, Ugo Vickers. I suoi genitori le hanno consentito di trascorrere un'infanzia agiata. Ha trascorso lunghi periodi a Calcutta per poi rientrare in Inghilterra. Vivi viene descritta come una bambina che dormiva molto poco, il che rispecchia la sua futura personalità, piena di vita, frenetica, energetica. Con il pieno sostegno dei genitori, Vivian si iscrive nel 1931 alla Royal Academy of Dramatic Art, la più importante scuola di teatro di Londra. Incapace di gestire le sue passioni, o al contrario desiderosa di viverle fino in fondo, si fidanza poco più che diciottenne con Herbert Leigh Allman, di 13 anni più vecchio di lei. Dopo pochi mesi, i due decidono di sposarsi e Allman, critico nei confronti del mondo dello spettacolo, chiede a Vivian di congedarsi dall'Accademia. Leigh Allman era un uomo davvero speciale, molto stimato e molto apprezzato in società per i suoi modi gentili, per i suoi alti ideali, per il rispetto che aveva verso tutti. Era insomma un uomo che ogni giovane ragazza avrebbe probabilmente considerato un buon marito. Il matrimonio ha luogo il 20 dicembre 1932 e dopo poche settimane l'ambiziosa Vivian ottiene dal marito il permesso per riprendere i corsi di recitazione. Il 12 ottobre 1933 nasce la loro figlia Suzanne. Potrebbe essere il coronamento di un matrimonio. Per Vivian è invece la verifica che quella vita non è congeniale alla sua irrequieta indole. Vivian continua lo studio della recitazione e comincia a lavorare come modella. Il primo film come comparsa arriva nel 1935, Things Are Looking Up, insieme al nome d'arte Vivian Lee. Nello stesso anno giunge anche il debutto teatrale di Mask of Virtue, che ci riporta a quella sera in teatro dove Vivian debutta. Ascoltiamo i ricordi dell'attore John Mills, suo grande amico, vincitore di un premio Oscar. Ha fatto un debutto teatrale strepitoso. Tutti erano rapiti dalla sua figura seducente e dalla sua recitazione magnetica. Mills non è l'unico attore accorso quella sera all'Ambassador Theater per vedere Vivian. Insieme a lui, un altro giovane attore sta assistendo alla rappresentazione e perderà completamente la testa per lei. È un attore di talento, ma nel 1935 è ancora poco noto. La prima volta che misi gli occhi sulla proprietaria di questa meravigliosa, inimmaginabile bellezza fu sul palcoscenico del St. James Theater, dove recitava in The Mask of Virtue. Con questa parte aveva attirato un notevole interesse, anche se, a quei tempi, non esattamente per il fatto di essere un'attrice promettente. Al di là della sua bellezza, che era magica, aveva un portamento meraviglioso. Il collo sembrava quasi troppo fragile per sostenere la testa e la reggeva con un senso di sorpresa e con quella specie di orgoglio del giocoliere che riesce a far sembrare quasi casuale un'abile mossa. Le parole che avete appena sentito sono quelle del grande Laurence Olivier. Laurence Olivier. Si pronuncia così alla francese, Olivier, perché la famiglia da cui discende è di origini francesi, giunta a Londra all'epoca delle persecuzioni degli Ugonotti. Olivier nel 1935 ha 28 anni. Proprio in quell'anno ha fatto il suo grande debutto shakespeariano con Romeo e Giulietta, il dramma d'amore per definizione. Quella sera è a teatro per vedere Vivian. In breve, l'attenzione per lo spettacolo si trasforma in totale interesse verso quell'attrice. In quei giorni, quasi per un gioco del destino, Bing Crosby canta L'amore è dietro l'angolo. Dopo lo spettacolo, Olivier va in camerino. Si complimenta con l'attrice, i due parlano a lungo, stringono un'amicizia professionale, così almeno credono. Entrambi hanno una famiglia, dei figli, le loro vite sono felici. Nel 1937, Olivier è già il più importante attore teatrale inglese. Interpreta un trionfale Amleto e dirige e recita in uno splendido allestimento dell'Enrico V. Vivian intanto passa al cinema, interpretando una serie di buoni successi. L'incontro professionale per due stelle giovani, brave e belle come loro, arriva puntuale. I due attori recitano insieme sul set di Elisabetta d'Inghilterra. Elisabetta d'Inghilterra, dramma storico diretto da William Howard, è una delle produzioni inglesi più attese del 1937. Quelle immagini di oltre 70 anni fa mostrano ancora tutta la tensione erotica tra i due attori, la loro intesa attraverso sguardi, le mani che si sfiorano. Come quel set cambierà le loro vite, offrendo ai loro cuori l'occasione di amarsi, i nostri protagonisti non lo sanno ancora. Ma quella che inizia non è una banale relazione clandestina. È l'inizio di un mito che li vedrà protagonisti sul palco come nella vita. Il loro amore è pari alla loro ambizione. È certo che la loro storia provochi scandalo, ma soprattutto interesse. Ed entrambi cavalcano questo momento per ottenere tutti i vantaggi professionali. Nel 1937 Vivian e Ofelia nell'Amleto diretto da Laurence al Vic Theatre. Per Laurence arriva la consacrazione sul grande schermo. Rebecca, la prima moglie di Hitchcock. Cime tempestose di William Wyler. È una specie di rincorsa tra i due. Una rivalità ideale, soffocata dall'amore e dalla passione che li travolge. Il 1938 è l'anno di Via col vento. Con il favore di David e Myron Selznick, Vivian ottiene la parte bruciando sul filo di lana Paulette Goddard, Jean Arthur e Joan Bennett. Nonostante i contrasti con il nuovo regista Victor Fleming e con uno degli interpreti maschili, Leslie Howard, Vivian riesce a liberarsi del suo accento troppo british e a ritagliarsi una parte nella storia del cinema, grazie ad una prestazione da antologia nel più fiammeggiante dei melodrammi di Hollywood. Per Via col vento, Vivian si aggiudica anche il suo primo Oscar, uno dei 10 che il mitico film di Fleming vince. Miss Vivian Lee in Gone with the Wind. Così il critico Luca Malavasi su Via col vento. Possiamo dire che Via col vento è un film enorme, eccessivo e per certi versi anche deforme. Deforme nei sentimenti, che sono troppi e troppo accesi e in molti punti raggiungono una strana poesia espressionista. E però sono proprio le dimensioni di questo film a farne una specie di piramide piantata in mezzo alla storia del cinema. Una piramide sicuramente un po' kitsch, rivista oggi, ma con dentro tutto, e in particolare una piramide che possiede tutto quello che serve agli spettatori, agli studiosi di cinema di oggi, tutto quello che serve per capire che cos'era e come funzionava la Hollywood dell'epoca. Vivian e Lawrence, nel frattempo belli, ammirati, sembrano una coppia inossidabile. La loro passione è un fiume in piena, ma è capace anche di consumare ogni loro energia. Sembra un gioco di relazione pericoloso il loro, soprattutto per chi dei due si dimostrerà il più debole. Durante l'allestimento dell'Amleto, diretto dallo stesso Olivier all'Old Vic Theatre, l'attore racconta di un incidente avvenuto in seguito a un repentino sbalzo di umore di Vivian, che si stava semplicemente, tranquillamente preparando ad andare in scena. L'attore regista racconta in particolare di un'improvvisa furia dell'attrice che comincia a inveire contro di lui per poi tornare improvvisamente silenziosa e con lo sguardo fisso nel vuoto. La sua interpretazione di lì a poco non avrebbe risentito di questo episodio e dal giorno dopo tutto sarebbe tornato alla normalità. Olivier però avrebbe dichiarato in seguito che quello fu il primo momento in cui si rese conto che qualcosa nella personalità della Ligue probabilmente non andava. Lawrence Olivier non dà peso a quell'episodio. Tutto va bene. La sua carriera è al massimo, ama quella donna alla follia. Quello che vede è una strada tutta in discesa. Ma il suo talento, unito ad un carattere estremamente equilibrato, sono uno specchio impietoso per la compagna. Vivian è bellissima, capace di performance altrettanto straordinarie. Ma il suo carattere è fragile e ogni volta che va in scena paga un inestimabile prezzo psicologico. Nel frattempo, la puritanissima Inghilterra, che mal sopporta la relazione trasgressiva di Larry e Viv, si trova a fronteggiare uno shock molto più grande per una questione analoga, molto più reale. L'erede al trono Edoardo di Windsor, principe di Galles, si unisce a Wallis Simpson, una donna che ha alle spalle un divorzio e che procede verso il secondo, oltretutto sprovvista del blasone aristocratico. Quando il 20 gennaio 1936, alla morte del padre Giorgio V, Edoardo diventa re, annuncia immediatamente la sua intenzione di insediarsi, accompagnato da Wallis, ancora sposata, aprendo quindi una frattura con la Chiesa d'Inghilterra. Edoardo è posto davanti a una scelta drammatica: l'amore o il regno? Il principe ha già scelto, in realtà. Abdica in favore del fratello, Giorgio VI, l'11 dicembre del 1936. La monarchia ha vinto. Dio salvi la regina. Hanno qualcosa in comune Edoardo e Wallis, Lawrence e Vivian. Per la coppia di attori sta iniziando un decennio straordinario. Nel 1940 i rispettivi coniugi cedono e concedono il divorzio. Le nozze finalmente si possono celebrare. È così che vengono ricordate dall'amico John Mills. Il matrimonio tra Larry e Viv fu meraviglioso. Subito dopo le nozze si trasferirono nel loro splendido cottage nel Buckinghamshire. Era un luogo incantevole, una specie di castello, un luogo che rispecchiava perfettamente gli Olivier. Belli, colti, sofisticati e dotati di quel sottile esotismo che gli inglesi sempre conservano agli occhi degli americani, Vivien Leigh e Lawrence Olivier sono stati per certi versi la coppia più eccentrica e arrogante della Hollywood dell'epoca. Ne erano parte e al tempo stesso non vi appartenevano fino in fondo. Possiamo considerarli due migranti molto interessati ad ambientarsi, ma non intenzionati a mescolarsi. Qualche mese prima, il 3 settembre 1939, la Gran Bretagna, insieme alla Francia, dichiara guerra alla Germania. Il baratro del secondo conflitto mondiale è solo all'inizio. Gli Olivier, ormai planati ad Hollywood, si impegnano attivamente per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica americana a favore di un intervento in guerra accanto alle truppe britanniche. Sono tra i più attivi in questo senso. Nel 1941 i due girano insieme Il Grande Ammiraglio, una delle tante pellicole di propaganda che Hollywood sforna in questo periodo per promuovere le logiche interventiste presso i cittadini americani. Il grande successo del film fa sì che la coppia si leghi in rapporti d'amicizia niente meno che con Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt. Nel 1943 l'attivismo della Lee la spinge in Africa per una serie di spettacoli per le truppe impegnate al fronte. È iperattiva, sempre impegnata in un nuovo progetto. Una corsa senza sosta a colmare con altrettanti successi la carriera sfolgorante del marito. Ma non può durare, non per un animo fragile come quello di Vivian, che si ammala di tubercolosi. Viene ricoverata per alcune settimane e poi dichiarata guarita. Ma il problema è un altro. La malattia le ha causato una forte depressione che ha svelato il profondo lato oscuro della bellissima attrice. Viv soffre di disturbi bipolari, un problema sempre tenuto sotto controllo da una vita spesa al massimo. La depressione lo fa esplodere. Le vite di Viv e Larry sono troppo intrecciate. Per loro è l'inizio di un periodo difficile che influenzerà le loro carriere. Quel 1943 è un anno di guerra ma ricco di eventi. È Roosevelt, il primo presidente americano a compiere una trasvolata atlantica nel suo ufficio, il primo Air Force One della storia, per incontrare il collega Churchill. Napoli cade sotto l'avanzata alleata. Viene isolata la streptomicina. È l'inizio della fine per una malattia devastante, la tubercolosi. Il dottor Albert Hoffman scopre le proprietà allucinogene dell'LSD, una droga che influenzerà la musica delle nuove generazioni. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati ci ha riportati negli anni 30, quando le vite di Laurence Olivier, il più grande attore inglese di tutti i tempi, e di Vivian Leigh, la bellissima Rossella O'Hara di Via col Vento, si incrociano in un piccolo teatro londinese. Attratti dalle rispettive carriere, i due attori si amano e si rincorrono sui set di Mezzomondo, in una spirale di competizione che sembra inarrestabile. Vivian mostra già i segnali di una sofferenza oscura e pericolosa, disturbi bipolari e manie depressive. Dopo la malattia di Vivian e il suo ritorno a casa, le condizioni di Viv sembrano lentamente migliorare. Nei racconti di John Mills, attore che all'epoca frequenta il cottage della coppia, emergono i tratti di una situazione che si va facendo piuttosto difficile. Da fuori sembravano ancora la coppia meravigliosa che eravamo soliti ammirare negli anni precedenti, ma osservandoli attentamente si poteva notare che qualcosa stava cominciando a cambiare. Olivier, nel frattempo, trionfa con il suo Enrico V, la prima delle sue tre grandi trasposizioni shakespeariane. Il film raccoglie consensi e riconoscimenti in tutto il mondo, compreso un Oscar speciale per la qualità eccelsa dell'adattamento. Olivier è al punto più alto della sua carriera. Vivian, quasi per tutta risposta, scivola verso la depressione. Ma la storia tra i due sembra riprendere quota. È il 1945, quando Vivian accetta la parte della protagonista in Cesare e Cleopatra, accanto a Stewart Granger e Claude Rains. Viv forse non è mai stata così bella, così sensuale, sul grande schermo. Nonostante la mediocrità del film, la sua presenza illumina la scena. Sul set Viv sembra rinata, ma qualcosa accade in uno degli ultimi giorni delle riprese, come ricorda il critico inglese Alexander Walker. In quell'occasione Viv doveva girare una scena molto fisica. Purtroppo, mentre percorreva un tratto di corsa, inciampò e cadde, rotolando lungo diversi gradini. L'impatto fu violento. Sfortunatamente Vivian era incinta e fu così che perse il bambino. Per Viv è uno shock tremendo e forse è il punto di rottura della storia con Larry. Il figliastro, Tarquin Olivier, così scrive. Non riusciva a dormire e mio padre doveva restare con lei durante la notte, anche se non soffriva di insonnia. Era una situazione molto faticosa. La perdita del bambino sembrava insanabile e fece esplodere la sua tendenza autodistruttiva. In più beveva, il che non aiutava certo. In quel periodo il disturbo bipolare è una malattia poco conosciuta, non esistono terapie farmacologiche efficaci. Il corpo di Vivian viene progressivamente fiaccato dalle sedute di elettroshock e dall'alcol. La vita di Larry e Viv diventa un inferno. La coppia più invidiata e ammirata del Regno Unito, la cui storia d'amore è iniziata con un incrocio casuale di destini in un piccolo teatro di Londra, vive adesso il proprio dramma personale. Ted Faulkner, attore, era un amico di famiglia. Se in qualche modo Larry faceva qualcosa che lei riteneva sbagliata, diventava una vipera, uno scorpione. Poteva essere molto pericolosa, ma improvvisamente succedeva che il suo umore si trasformava e diventava allora dolcissima e amabile. Superficialmente la vita dei coniugi Olivier si sforza di sembrare normale. Il lavoro è l'unica ancora di salvezza dei due attori, insieme al rispetto del cerimoniale e delle numerose circostanze ufficiali. Nel 1947, Olivier, dopo l'Oscar per Enrico V, viene nominato baronetto. A Buckingham Palace, Viv diventa Lady Olivier. Accanto a Sir Lawrence, completa l'immagine effimera di una coppia felice. Il titolo di baronetto, più avanti, diventerà appannaggio non solo di grandi del teatro, ma anche della musica. I Beatles, Elton John, Mick Jagger, Cliff Richards. L'anno successivo, gli Olivier partono per una tournée in Australia con la Vic Theatre Company, la compagnia teatrale di Lawrence, in cui Viv è l'attrice di punta. Il tour è faticoso e massacrante e vede la compagnia girare per l'Australia per diversi mesi. Gli Olivier hanno anche il ruolo di ambasciatori della corona, rappresentanti del Regno Unito in uno degli stati più importanti del Commonwealth. Mr. President, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen. Signor Presidente, Vostra Eccellenza, signore e signori, siamo felicissimi di essere qui e siamo incantati dalla bellezza del vostro paese. Durante la tournée, Vivian cerca di riaffermare disperatamente la propria personalità. Questa volta agisce non sul piano professionale, ma su quello affettivo. Anche se la facciata della storia d'amore inizia a creparsi. Georgina Morgan, allora, era una giovane attrice della compagnia e ricorda così la percezione di quel che successe. Li avevo visti una prima volta a Londra, anni prima. E sembravano davvero innamorati. Alla fine di quel tour massacrante, capimmo che era successo qualcosa. Era cambiato qualcosa. Naturalmente, ai grossi problemi già esistenti, si aggiunse quello di Peter Finch. Vivian ha un amante. La storia con Peter Finch, giovane e sensuale attore australiano, andrà avanti per qualche anno. Viv e Larry si amano. Perché quel tradimento? La domanda sorge spontanea dal momento che i due coniugi continuano a lavorare insieme, ripartendo per una lunga tournée teatrale in Inghilterra. Il lavoro è sempre stato un piccolo rifugio per i due attori, soprattutto per la delicata situazione psicologica di Vivian. Ma anche in questo ambito il destino ha in serbo un'amara sorpresa, quando l'attrice accetta nel 1949 il ruolo di Blanche Dubois nel dramma di Tennessee Williams, Un tram chiamato Desiderio. Tu sei Cedar Stanley? Sono Blanche. Contattati dallo stesso Williams per portare on stage il suo dramma, i coniugi Olivier sono inizialmente divisi. Viv vorrebbe accettare, Larry è perplesso. La parte di Blanche è una parte complessa, contraddittoria, forse maledetta, e potrebbe aggravare le condizioni psicologiche dell'attrice. Alla fine accettano. Laurence Olivier dirige, Vivian Leigh è la protagonista. La pièce gira per gli States ottenendo un successo clamoroso e più di 300 repliche. Quando Elia Kazan decide di portare sullo schermo la storia di Williams, ingaggia Vivian come protagonista, accanto a Marlon Brando. Il critico Alexander Walker spiega i rischi legati a quel ruolo. Era una parte molto difficile per Vivian e soprattutto una parte molto pericolosa per una persona affetta da disturbi maniaco-depressivi. Il film la mette a contatto con attori di una generazione nuova, come Brando o Karl Malden. Questi provengono dall'Actor Studio di Lee Strasberg e utilizzano le proprie emozioni, i propri ricordi, la propria psiche per ricostruire il personaggio. Fu un'esperienza nuova per Vivian, perché tutti gli attori coinvolti da Kazan provenivano dall'Actor Studio. Letteralmente dipingevano i loro personaggi richiamando le emozioni sopite dentro di loro. Vivian temeva questo approccio e infatti l'esperienza la sconvolse. La performance di Vivian è strepitosa, forse il momento più alto della sua carriera, ma costa carissimo a lei e al marito Larry. Insieme ad un Oscar, arrivano numerosi tracolli e ricoveri, gli elettroshock, l'aumento della dipendenza dall'alcol. La pressione di quel ruolo fu fatale. Viv non riuscì mai a uscire dal personaggio, ne venne come risucchiata. Quel seme autodistruttivo che caratterizza la relazione tra Laurence Olivier e Vivian Leigh è anche la ragione del loro successo. Ma dopo molti anni di vita al massimo e di amore infinito, è arrivato il momento di pagare il conto. Che arriva salatissimo. I due tentano di salvare la situazione, si imbarcano nella tournée americana di Cesare e Cleopatra, da Shakespeare, spettacolo da lui diretto e interpretato da entrambi. Lo spettacolo ottiene grande successo e sembra rimandare l'irrimediabile, che giunge però ineluttabile nel 1954. Mentre Olivier è impegnato sul set di Riccardo III, Vivien recita in Elephant Walk, proprio al fianco di Peter Finch. Dopo una prima fase delle riprese in Sri Lanka, la troupe si trasferisce ad Hollywood. Qui Vivien ha un crollo nervoso violentissimo, che costringe la produzione a sostituirla con Liz Taylor. Al ritorno in Inghilterra, l'attrice confessa al marito la relazione con Finch. Olivier, sull'orlo della disperazione, fa ricoverare la moglie, come ricorda l'amico John Mills. Purtroppo aveva questi terribili momenti di crisi, che all'epoca venivano curati con l'elettroshock. La loro vita era diventata un inferno. L'elettroshock, i pesantissimi sedativi. Vivien esce dalla clinica in pezzi. Olivier prende una pausa dal suo lavoro per accudire la moglie. È l'ultimo tentativo. La riporta in scena con sé in alcuni spettacoli shakespeariani. La situazione sembra riprendersi, Vivien rimane incinta, ma stavolta è un aborto spontaneo a distruggere il sogno di maternità e a sprofondarla nell'oblio. Da quell'incontro quasi casuale nel camerino dell'Ambassador Theatre di Londra, quando erano entrambi due giovani attori in procinto di esplodere, sono passati 25 anni. 25 anni di amore e di passione, ma anche di tormenti e di sofferenze. I destini incrociati di Larry e Viv hanno dato senso alle loro vite, ma lasciano anche profonde ferite e grandi sofferenze. Nel 1958 le rispettive strade si dividono dolorosamente. In quell'anno che segna fallimento e dolore per Larry e Viv, non vi è spazio per il pessimismo in un'Italia nel pieno del boom economico. Si sogna un futuro di benessere e di felicità. A Sanremo un trentenne cantante e autore esordisce con un brano che verrà ricordato dal mondo intero. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati segue la complessa parabola della storia d'amore tra Laurence Olivier e Vivien Leigh. Dalla passione, scoppiata dopo il loro fortuito incontro in un teatro londinese, al divorzio, inevitabile conseguenza del dramma della depressione e dei disturbi bipolari che affliggono l'attrice inglese e che logorano inesorabilmente la coppia, spingendola quasi all'inferno. Nel 1960, l'ufficializzazione del divorzio. Il 1960 è un anno particolare. Proprio come la separazione tra Olivier e Vivien Leigh sembra preludere a un epilogo tragico, così nel mondo alcuni eventi preparano il terreno a situazioni più drammatiche, che si verificheranno negli anni a venire. Il 1960 è l'anno della rottura tra gli Stati Uniti e Cuba, dell'elezione di Brezhnev, che prende il posto di Stalin alla guida dell'URSS. Alla fine dell'anno viene eletto John Fitzgerald Kennedy, che si insedierà solo nei primi mesi dell'anno successivo. Sullo sfondo di questi cambiamenti, due destini un tempo incrociati si separano, ma solo apparentemente, perché il fortissimo legame tra i due non si scioglierà mai, come racconta Joan Plowright, la nuova moglie di Laurence Olivier. Non ho certo rovinato il matrimonio. Larry e Viv erano già in crisi, ma la loro storia fu per loro il vero amore della vita. So che lei tenne una sua foto sul comodino finché morì, mentre un amico che vide Laurence guardare un vecchio film di Viv sentì dire: quello fu vero amore. Olivier ha un figlio dalla Plowright, ma rimane costantemente in contatto con il nuovo compagno di Viv, John Merridale, per avere aggiornamenti sulla salute della donna. Nel frattempo, gli vengono attribuite relazioni omosessuali, poi smentite, con l'attore Danny Kay e lo scrittore Noel Coward, voci spesso attribuite al rancore della stessa Leigh. Vivien, a sua volta, cerca di andare oltre, grazie anche al ruolo del premuroso Merridale. Torna sul set con La primavera romana della signora Stone e affronta una breve tournée teatrale. Nonostante tutto, ha modo di rilasciare alla stampa una dichiarazione significativa su questo periodo della sua vita. Preferirei aver vissuto una breve vita con Larry che una lunga senza di lui. Era profondamente infelice, ma fu fortunata ad avere accanto a sé in questi anni un uomo come John Merivale, che si prendeva cura di lei in maniera fantastica. Lei era consapevole di questo, ma la lontananza da Larry finì per aggravare le sue condizioni. Come dice John Mills, le sue condizioni mentali lontano da Larry peggiorano. L'intreccio delle loro vite produceva conseguenze comunque. Stare insieme li consumava. così come lo stare separati. Nella primavera del 1967, mentre si trova in teatro per provare il dramma A Delicate Balance con Michael Redgrave, Viv ha un nuovo attacco di tubercolosi. I medici le consigliano di sospendere le prove, di riposarsi, ma Viv non ascolta subito il consiglio. Poche settimane dopo è bloccata a letto. Le fu consigliato subito di riposare, di stare a letto, ma non seguì il consiglio. Forse perché voleva lavorare per sentirsi viva, o più probabilmente perché sentiva che in qualche modo la sua stessa vita andava verso la conclusione. Il marito la trova sdraiata sul pavimento, priva di vita. Un collasso l'ha definitivamente sottratta alle sue sofferenze mentre stava cercando di raggiungere il bagno. È la sera del 7 luglio del 1967, l'anno dei Doors di Light My Fire. La mattina seguente Merivale telefona a Laurence Olivier per dargli la notizia. L'attore inglese accorre dall'amata, ma è completamente sconvolto. Si allontana da Londra, fugge, incapace di reggere il dolore, incapace di rendersi utile per i preparativi del funerale, incapace addirittura di prendere parte alle esequie di Vivian in Trafalgar Square. Quella formata da Vivian Leigh e Laurence Olivier è stata senz'altro una delle grandi coppie d'attori della Hollywood classica, accanto a Gable Lombard e Bogart Bacall. A differenza di queste, però, sono state una coppia scandalosa e, per questo, un po' meno amata. Sicuramente, per certi versi, meno rappresentativa della coppia dell'America e non di Hollywood dell'epoca. Per Laurence Olivier inizia una nuova vita. Il ricordo di Vivian lo accompagnerà sempre, negli ultimi 20 anni della sua vita fino alla morte, avvenuta nel 1989. Quell'anno, nella radio di tutto il mondo, veniva lanciato il messaggio più importante. L'amore è come un seme e va piantato perché cresca. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.